si parla di grandi personaggi, e noi lo facciamo tutti i giorni, può succedere, soprattutto per quei personaggi magari vissuti un po' di tempo fa, che i fatti si intreccino con la leggenda. Tutto questo anche per trasformare il personaggio in un simbolo. E il simbolo ha valore però solo se conosciamo la sua storia, e tanto più valore ha quante più sono le persone che conoscono questa storia. Ecco perché oggi voglio parlarvi di una statua che si trova in piazza Campo dei Fiori a Roma. È un simbolo potente quella statua, ed è giusto conoscerne la storia. Raffigura un monaco col cappuccio abbassato sul volto, col viso pensieroso. Alla base della statua c'è un'iscrizione che dice: a Bruno, il secolo da lui divinato, qui dove il rogo arse, il monumento è stato posto lì in memoria di un uomo e di quello che ha rappresentato. Quest'uomo si chiamava Giordano Bruno. È dall'infanzia che i maestri ci parlano di martiri, che diedero esempi di civiltà e di morale a loro spese. Ma non ci dicono quanto doloroso fu il martirio, la tortura. Tutto rimane in astratto, filtrato come se guardassimo la scena attraverso spesse pareti di vetro che ammortizzano i suoni, e le immagini perdessero la violenza del gesto per opera, grazia e potere di rifrazione. E allora possiamo dirci tranquillamente l'un l'altro che Giordano Bruno fu bruciato. Se gridò, non lo sentiamo. E se non lo sentiamo, dove sta il dolore? Ma gridò, amici miei, e continua a gridare. E le parole del premio Nobel José Saramago ci riportano al sacrificio di quest'uomo, di questo spirito critico, ribelle, che ha consacrato la sua vita allo studio, alla ricerca filosofica. Troppo spesso si ricorda solo la sua morte, senza capire davvero l'importanza della sua vita. Giordano Bruno è stato uno dei maggiori filosofi del Rinascimento europeo, è stato un ribelle, un curioso, un pensatore, uno che ha saputo contestare il pensiero dominante con forza e con grande intelligenza. Insomma, la verità è che quella statua in Campo dei Fiori è più di un monumento alla memoria, è più di un simbolo di libertà. Quella statua rappresenta in tutte le sue contraddizioni l'uomo moderno. Per questo motivo il simbolo e l'uomo che rappresenta mai andrebbero dimenticati. È difficile districarsi tra tutto quello che è stato scritto e detto di Giordano Bruno, perché lui ha dato vita veramente a un immaginario vastissimo, e quindi non è facile distinguere la realtà dei fatti dalla leggenda. Però il nostro modus operandi è quello di mettere a fuoco la straordinaria vicenda umana di Giordano Bruno, così vogliamo raccontarvela. Nasce nel 1548, si chiama Filippo Bruno, nasce a Nola, vicino a Napoli, è figlio di un soldato. E fin da quando è ragazzo è uno studioso, appassionato, amante della dialettica, della logica, della filosofia. Nel 1563 entra nel convento di San Domenico a Napoli, a soli 15 anni, e qualche anno dopo viene consacrato sacerdote e prende il nome di Giordano. Lui non ha una vocazione particolare. La scelta di farsi domenicano avviene più che altro perché a quei tempi era l'unica soluzione che gli permetteva di studiare filosofia con serenità. Quella che però doveva essere una vita tranquilla si dimostra subito molto movimentata, perché Bruno si distingue subito per la sua spregiudicatezza intellettuale. Quando è un novizio viene denunciato da un superiore per avere tolto dalla sua cella le immagini dei santi, lasciando solo il crocifisso. C'è un motivo preciso: Bruno ritiene che il tipo di venerazione verso i santi sia qualcosa che distoglie dal senso profondo della religione. Qualche anno dopo, nel 1576, entra in contrasto anche con altri confratelli. Lui studia le teorie di Ario e Erasmo, che erano due teologi che erano considerati eretici. Questo naturalmente non è ben visto. Non ha neanche 30 anni quando è costretto a fuggire da Napoli per non essere processato. Lo spiega anche il professor Michele Ciliberto nel libro Giordano Bruno. Fuggito a Roma, Bruno se ne allontanò poco dopo, anche per l'accusa, del tutto infondata, di aver gettato un confratello nel Tevere. Abbandonato il convento di Santa Maria sopra Minerva, iniziarono le sue peregrinazioni per l'Italia e l'Europa, che lo portarono fino a Ginevra. Qui, dopo essersi immatricolato all'Accademia, fece stampare un opuscolo nel quale sosteneva che il titolare della cattedra di filosofia aveva fatto in una sola lezione 20 errori. Non era poca cosa. A Ginevra la legge comminava il carcere e altre pene a chi avesse offeso o criticato sia ministri che governatori che magistrati. E i magistrati, appunto, erano considerati i lettori dell'Accademia. E a Ginevra Bruno non si limita a offendere un professore, attacca direttamente i ministri calvinisti. E in lui c'è già il germe di quella che più avanti diventerà una critica molto ampia verso il mondo protestante, il mondo cattolico. Lui fino a quel momento non è ancora pronto a questo scontro, cede alle passioni, decide di ritrattare, poi lascia la città, va a Lione, a Tolosa, e lì comincia a insegnare filosofia. Alla fine del 1581, a 33 anni, è costretto a lasciare anche Tolosa, ma questa volta per via degli scontri molto violenti tra cattolici e ugonotti, e allora va a vivere a Parigi, tiene delle lezioni pubbliche che suscitano grandi entusiasmi, ma anche attirano diverse critiche. Insomma, il mondo sta cominciando a conoscere Giordano Bruno. Enrico III mi fece chiamare un giorno, ricercandomi se la memoria che avevo e che professavo era naturale oppure arte magica, al qual diedi soddisfazione e con quello che gli dissi e feci provare a lui medesimo, conobbe che non era per arte magica, ma per scienza. Eh sì, il re di Francia Enrico III è incuriosito dalle voci che girano sul conto di questo filosofo considerato un mago. Eh sì, perché si dice che Bruno avesse una memoria così prodigiosa da sembrare innaturale. Lui pubblica un libro e lo dedica al re, Umbris Idearum, e in questo libro illustra l'arte della memoria, la mnemotecnica antenata, insomma, di tutte quelle strategie mentali che oggi possono stupire. La mnemotecnica è una pratica di origine molto antica che permette di ricordare a memoria anche interi discorsi. Enrico III rimane impressionato dalle capacità del filosofo. Nel 1581 gli affida una cattedra al Collegio Reale, che crea appositamente per lui. Bruno lascerà Parigi due anni dopo, nel 1583, per andare a Londra, al seguito dell'ambasciatore francese d'Inghilterra Michel de Castelnau. A Londra Bruno si fermerà solo due anni e mezzo, anni decisivi per lui, perché è qui che inizia a sviluppare il suo pensiero più maturo e comincia a scrivere degli autentici capolavori. Prima ancora che Bruno mettesse piede a Londra, arriva però un messaggio dell'ambasciatore inglese a Parigi, Henry Cobham. Lui avvisa il primo segretario del Regno d'Inghilterra, Francis Walsingham, che Bruno ha, la definisce, un'ambigua posizione in fatto di religione. Peraltro siamo nel pieno degli scontri tra anglicani e puritani, e un prete ormai sconfessato dalla Chiesa Cattolica, qual è Giordano Bruno, si sta occupando di filosofia, insomma può essere un ospite scomodo in Inghilterra, però può essere anche una mossa strategica per chi voglia fomentare gli animi, insomma dipende dai punti di vista. Bruno va a insegnare a Oxford, che già allora era uno dei luoghi più prestigiosi della nuova conoscenza. È un corso in latino in cui peraltro, tra le altre cose, sostiene apertamente le teorie di Niccolò Copernico sul moto dei corpi celesti. Scriverà di questo argomento anche nella Cena delle Ceneri, forse una delle sue opere più famose in assoluto. Ecco come ne parla Carlo Sini, il filosofo, in un intervento del 2016. La Cena delle Ceneri è l'esaltazione di Copernico, la scoperta di Copernico da parte di Bruno e la sua totale adesione alla rivoluzione copernicana, che rovesciava totalmente la cosmologia antica e classica e che andava in rotta di collisione con la struttura aristotelica del cosmo, così come per secoli e secoli si era immaginato che fosse il mondo, con la Terra al centro, eccetera, eccetera, eccetera. È troppo facile dire Bruno è stato l'ambasciatore del copernicanesimo, è stato il filosofo del... Sì, certo, si può dire, ma è stato molto, molto di più. E lui lo sapeva benissimo. Nella Cena delle Ceneri Bruno si sbilancia, e anche tanto, perché afferma che l'universo non ha centro né fine. È un'idea molto moderna, al di là addirittura della stessa concezione copernicana, ma ha un'idea che è in netto contrasto col pensiero dominante dell'epoca. Partono degli scontri con gli accademici e qui Bruno è costretto a interrompere il corso a Oxford dopo 3 lezioni, torna a Londra e continua la sua polemica nei circoli di corte, pubblica anche alcuni tra gli scritti più importanti della sua vita, il Sigillus Sigillorum, della causa Principio et Uno e degli eroici furori, scritti filosofici molto complessi, e qui emerge una riflessione originale con degli elementi di neoplatonismo, di panteismo, di misticismo, ma anche di studi cabalistici, di teorie astronomiche. Bruno è tutto e il contrario di tutto in quel momento. Lui descrive la materia come qualcosa di vivo, parla non solo di un universo infinito, ma anche di infiniti mondi. Formula una tesi secondo la quale esiste un'anima universale alla quale ritorneremo dopo la morte per reincarnarci. E insomma, sono testi che da un lato incontrano consensi, ma ovviamente trovano feroci opposizioni, perché a tutti è chiaro che si ha a che fare con un pensatore di primo ordine, che piaccia o no, e anche con un abilissimo scrittore. Scriverà commedie, abbandonerà più volte il latino per scrivere in lingua volgare, insomma, da un lato un virtuoso del pensiero e della penna, e dall'altro però un uomo molto scomodo. Nell'ottobre del 1585, quindi a 37 anni, Bruno è già di nuovo in Francia al seguito dell'ambasciatore Castelnau. Qui però trova un mondo molto diverso da quello che ha lasciato. La Francia è nel pieno di una lotta religiosa ferocissima. Enrico III ha da poco firmato il trattato di Nemours, che ordina di cacciare gli eretici dal paese. La situazione comincia a farsi pericolosa, anche perché Bruno non può più contare sugli appoggi di un tempo, però lui non si ferma, non è il tipo di persona che si fa fermare. In tavola una disputa con il matematico Fabrizio Mordente, poi si scaglia in un feroce attacco pubblico contro la filosofia di Aristotele, che allora era considerato la massima autorità in campo scientifico, e ancora una volta ovviamente suscita reazioni violente. Nell'estate del 1586 si decide ad andarsene, lascia la Francia, gira diverse città, insegna per brevi periodi a Wittenberg, poi a Praga, poi va a Francoforte, e intanto non smette mai di scrivere, ha una produzione molto abbondante. A questo periodo, per esempio, appartengono le sue opere magiche, nelle quali cerca di dimostrare l'esistenza di forze naturali occulte, ma non mistiche. Accenni in direzione magica si individuavano fin dai primi scritti di Bruno, sia in termini seri che in chiave ironica. Ma occorre intendersi sul significato di questa presenza. Di fatto, è nei lavori degli ultimi anni che negli scritti di Bruno assumono rilievo centrale, ma non esclusivo, una problematica e un lessico di carattere magico. Alla luce dei testi, però, l'interpretazione di Bruno come mago ermetico non sembra oggettivamente sostenibile. Non c'è dubbio, infatti, che nelle opere magiche non fa altro che sfociare e approfondirsi quella tensione all'azione che è un tratto fondativo della sua filosofia. In pratica i riferimenti all'esoterismo che Bruno sta facendo non sono sui contenuti, rimangono a contorno delle sue teorie filosofiche. C'è da dire tra l'altro che tutta la nascita della scienza moderna è comunque avvolta da dottrine magiche, astrologiche, occultiste, e ci sono ancora troppe cose che non ci si riesce a spiegare. Insomma, tutto questo ha un ruolo decisivo nel Rinascimento italiano, un significato diverso da quello che gli si attribuisce oggi. E nei testi di Francoforte, scritti a Francoforte, comunque non si parla solo di magia, si parla di materia. Bruno espone la sua teoria sull'esistenza degli atomi, una questione filosofica che era dibattuta fin dall'antichità, e questo rinnova la sua polemica contro la fisica aristotelica. Si ritorna sul tema del superamento dell'eliocentrismo copernicano. Insomma, Bruno è troppo avanti per il suo tempo. Alla fine, nel 1591, viene cacciato anche da Francoforte e si rifugia a Zurigo, ma non molla, continua imperterrito a insegnare. E qui la vicenda di Giordano Bruno arriva a un punto cruciale. Nel 1591, infatti, quando lui è tornato a Francoforte per un breve soggiorno, arriva la lettera da Giovanni Mocenigo, è un patrizio veneziano che ha letto le sue opere, lo invita a Venezia perché gli insegni l'arte della memoria. Bruno accetta l'invito e questa è una mossa che gli costerà cara, una mossa imprudente, perché se in Europa quantomeno ha potuto sempre contare sul contrasto tra i protestanti e cattolici, tornando in Italia la situazione è molto diversa, anche nella Serenissima Repubblica di Venezia, che è nota per le posizioni liberali, è però il Vaticano, è troppo vicino. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un filosofo, di un innovatore, di un pensatore, di un contestatore. Forse in realtà stiamo raccontando la storia di un ribelle, Giordano Bruno. Stiamo raccontando la sua vita avventurosa, che lui ha passato in giro per l'Europa, tra le corti di Francia, d'Inghilterra. Abbiamo parlato delle sue idee sull'universo, del suo contatto con l'esoterismo, del suo rapporto con la religione. E in Giordano Bruno la conoscenza è qualcosa che si rinnova di continuo, è qualcosa che sovverte le idee precedenti, che sovverte l'ordine precostituito. Per un uomo come lui l'equilibrio e la calma sono dei difetti, c'è un unico imperativo: oltrepassare i limiti. E dopo tutti quegli anni passati a viaggiare, Bruno decide di tornare in Italia e sbaglia, perché l'Italia è terra di inquisizione, è un luogo troppo pericoloso per lui. Lui lo sa bene, per questo era stato lontano dall'Italia per tanto tempo, quindi è difficile capire esattamente i motivi che lo spingono a tornare. L'invito di Mocenigo, del nobile veneziano, probabilmente è un pretesto e forse dà troppa fiducia all'indipendenza di Venezia. Ricordiamoci che lui nel 1589 era stato scomunicato anche dalla chiesa luterana, cioè alla fine lui si trova nella condizione di essere interdetto da tutte le chiese, ha collezionato tutte le scomuniche possibili e in più è solo e senza protezione. Forse vuole provare a riconciliarsi con la chiesa cattolica approfittando di Gregorio XIV, che è un papa mite, oppure il suo ritorno potrebbe anche essere legato a un'offerta di docenza all'università padovana, un'offerta che non è mai stata confermata, però è qualcosa di credibile. Insomma, quello che è certo è che lui non è un uomo di basso profilo, ce lo spiega anche Michele Ciliberto. Da tempo Bruno pensava a se stesso come un mercurio mandato dagli dèi per portare la luce dopo secoli di tenebre. Sta qui, a ben vedere, il nocciolo di verità celato nelle deposizioni di Mocenigo, che testimoniò come egli pensasse di farsi capitano, di voler istituire una nuova setta di giordanisti, come insomma sperasse per sé un grande destino. Offuscare questo elemento è sbagliato. Vuol dire non cogliere la complessità di una decisione in cui si intrecciano, in una sorta di movimento a spirale, motivazioni personali, considerazioni politiche e giudizi di carattere storico-filosofico. Insomma, quello che torna in Italia è un pensatore nel pieno della sua maturità filosofica, della sua produzione scientifica, è un uomo consapevole del suo valore, delle sue capacità, insomma non uno sprovveduto. E però succede qualcosa di inaspettato. Nel 1591 muore Gregorio XIV e qualche mese dopo Bruno si decide a dedicare un suo scritto al nuovo papa, si chiama Clemente VIII, vorrebbe riappacificarsi con la chiesa romana, magari riuscire anche a accaparrarsi una cattedra. Insomma, il 21 maggio 1592 chiede licenza a Mocenigo, che lo ospita, vuole andare a Francoforte a fare stampare delle sue opere inedite. Forse Mocenigo ci rimane male, insomma, la notte del 22 maggio lo fa arrestare presentando denuncia nei suoi confronti per eresia. L'Italia del Cinquecento sarà anche un luogo affascinante, ma soprattutto un luogo molto pericoloso. Questa denuncia di Mocenigo, che probabilmente gli serba rancore perché si è sentito usato, comunque questo è un abuso di potere, un esercizio di potere quantomeno, però non è totalmente priva di fondamento. Il nobile veneziano sa perfettamente come attaccare Bruno. Mocenigo, nelle sue denunce, attacca sia le posizioni filosofiche di Bruno che i suoi atteggiamenti di carattere etico, civile e sociale. Ma non si tratta in genere di accuse gratuite. Tutt'altro. Per ognuna di esse si potrebbero individuare testi di Bruno che punto per punto le confermano. Con Mocenigo, il nonano si era, evidentemente, espresso con schiettezza, anche per il gusto che aveva sempre avuto di voler capire, quasi abbacinandoli, gli interlocutori. Bruno è un uomo di grande capacità, ma forse sta sopravvalutando se stesso e soprattutto non ha capito bene la situazione. Viene condotto al carcere di San Domenico di Castello e si apre quello che viene ricordato come il processo Veneto. Lui è accusato di disprezzare le religioni, di sostenere che il mondo sia eterno, che esistono infiniti mondi, di dedicarsi all'arte divinatoria, alla magia. E a queste accuse si aggiungono questioni più specifiche legate alla dottrina cattolica, per esempio il fatto di non ammettere la distinzione in Dio di persone, cioè la Trinità, di avere opinioni blasfeme, magari solo qualche perplessità, ma allora la perplessità era blasfemia su Cristo, di rinnegare la venerazione dei santi cristiani. Questo giusto per citare le accuse più importanti, la lista è lunghissima. A parte sua, Bruno non nega nulla, ma rivendica il carattere strettamente filosofico dei suoi ragionamenti. Insomma, respinge a una le accuse. La sua difesa era resa possibile dallo scarso numero delle sue opere che i giudici avevano a disposizione, soprattutto dal fatto che non conoscevano testi come la Cabala e lo Spaccio, che Bruno si guardò bene dal citare, a differenza dei dialoghi cosmologici o di quelli francofortesi, che sembravano, almeno in linea di principio, poter confermare la linea difensiva scelta. Il 30 luglio 1592, Bruno, in ginocchio, chiese al tribunale e a Dio umilmente perdono di tutti gli errori commessi, supplicando i giudici che gli fosse dato castigo. E la dissimulazione, scrive Bruno in uno dei suoi libri, non è un vizio da scacciare dal cielo se serve la verità. E lui è un brillante oratore, omette volontariamente le posizioni più difficili da spiegare, da conciliare con la dottrina cristiana, e la cosa sembra funzionare. Insomma, il processo Veneto si avvia verso l'assoluzione o comunque verso una condanna lieve, e però prima che possa chiudersi accade qualcosa di terribile, perché nel gennaio del 1593, dopo 9 mesi di dibattiti, il Senato veneziano cede alle pressioni del cardinale di Santa Severina, è l'inquisitore supremo a Roma. Insomma, viene permesso il trasferimento del processo in sede vaticana, l'estradizione. E in questa decisione pesa la relazione del procuratore Federico Contarini, incaricato dal Collegio di Venezia di valutare il caso. Questo Contarini scrive: le colpe di costui sono gravissime in proposito di eresie, sebbene egli sia uno dei più eccellenti e rari ingegni che si possano desiderare. Insomma, per Bruno si aprono le porte del carcere del Santo Uffizio di Roma, dove nuovi giudici prenderanno in mano il processo. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Febbraio 1593, questa è la data nella quale Giordano Bruno viene trasferito a Roma, e nella nostra storia, ma soprattutto nella sua storia, questo rappresenta l'inizio della fine, perché a Roma la posizione di Bruno si aggrava in seguito a alcune nuove denunce, e lo spiega anche lo storico Lucio Villari nella trasmissione Rai Passato e Presente. Celestino da Verona fu compagno di cella di Giordano Bruno e cercava di parlare con Giordano Bruno di questioni filosofiche, ma Giordano Bruno, che aveva un temperamento, diciamo, abbastanza vivace, lo riteneva un imbecille, a cui non era il caso di rivolgere la parola, lo riteneva un somaro, eccetera. Questa cosa colpì molto questo Celestino, lo offese e si vendicò inventando delle presunte eresie banalissime che furono poi prese in considerazione dal Tribunale dell'Inquisizione. Per esempio, Giordano Bruno criticava il culto dei santi, criticava il culto delle reliquie, criticava il mito della verginità della Madonna, ma lo faceva in modo filosofico, cercando di dare un'interpretazione a una religione che non doveva stare appresso a queste minuzie secondo il suo pensiero. Bruno usa una strategia difensiva attenta, consapevole, è intelligentissimo, sa cosa negare, cosa affermare, è molto cauto. Il 18 settembre del 1596 la congregazione forma una commissione con lo scopo di censurare i passaggi eretici contenuti nei suoi libri. A Bruno viene chiesto di abbandonare la sua teoria della pluralità dei mondi, che è in contrasto con la concezione cattolica di Dio. Nel 1597 il teologo gesuita Roberto Bellarmino, uno dei massimi dotti al servizio della Chiesa di Roma, viene nominato consultore del Sant'Uffizio, cerca di convincere Bruno ad abiurare lui. Però a questo punto non può cedere, non ha un comportamento lineare neanche in quel momento, alterna aperture a rifiuti, e anche perché le richieste di Abiura cambiano di volta in volta per quel che riguarda i contenuti, e lui sui contenuti sa difendersi perché ha una dialettica eccezionale. E nel settembre del 1599 il tribunale però fissa un termine di 40 giorni per il riconoscimento dei suoi errori. E Bruno a questo punto alza la testa e non ritratta, e l'8 febbraio del 1600 viene condotto al palazzo del cardinale Madruzzi in piazza Navona, e lì gli viene letta la sentenza. Dichiarato eretico impertinente, pertinace e ostinato, Bruno veniva degradato, espulso dal foro ecclesiastico e rimesso al braccio secolare perché fosse eseguita la sentenza. I suoi scritti dovevano essere bruciati in piazza San Pietro e inseriti nell'indice dei libri proibiti. Clemente VIII ordina che Giordano Bruno venga rimesso al braccio secolare perché venga eseguita la sentenza. Braccio secolare è una formula sinistra perché si intende la condanna a morte, però secondo la norma un tribunale ecclesiastico non può giuridicamente uccidere nessuno, gli altri sì. Però Bruno ascolta la sentenza in ginocchio, si alza e, rivolto ai giudici, esclama: tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell'ascoltarla. La mattina di giovedì 17 febbraio del 1600 Giordano Bruno viene condotto a piazza Campo dei Fiori. La sua lingua è serrata da una morsa affinché non possa parlare. Viene fatto spogliare nudo, legato a un palo. Una voce riassume in 8 punti i motivi della condanna. E poi la pira prende fuoco e gli si levano canti e litanie a accompagnare il suo supplizio. Così muore Giordano Bruno. La travagliata vicenda di Giordano Bruno si conclude dopo 8 anni di processi, alternati a lunghe pause, riprese, aperture, anche rifiuti. Le tematiche filosofiche e teologiche che sono state toccate in quegli 8 anni hanno raggiunto picchi molto elevati da entrambe le parti. È stato uno scontro di intelligenze, di fedi, di filosofie. Bellarmino, per esempio, non è uno sprovveduto, ed è proprio per questo che lui capisce la pericolosità delle tesi di Giordano Bruno, tesi capaci di scardinare uno status ormai consolidato da centinaia di anni di immobilismo intellettuale. Dall'inizio fino alla conclusione la vicenda di Giordano Bruno appare come un'enorme ingiustizia, perché è un uomo che è stato condannato per le sue opinioni, e questo naturalmente oggi è inaccettabile. Però bisogna contestualizzare i fatti. Tra il 500 e il 600 l'intolleranza religiosa è una forma condivisa, la punizione dell'eresia è considerata un obbligo morale, e durante tutto il processo la tortura viene usata forse in una sola occasione, durante un interrogatorio del 1597, anche perché allora la tortura era considerata una pratica legale. Insomma, dal loro punto di vista, ripeto, contestualizzando i fatti, il processo si era svolto nel massimo rispetto delle norme, senza abusi, senza preconcette volontà di condanna. Anzi, dagli atti appare evidente il tentativo della Chiesa fino all'ultimo di ottenere la biura, di evitare a Bruno la pena massima, soprattutto di non farne un martire. La volontà della Chiesa era dimostrare che le loro tesi erano migliori di quelli di Giordano Bruno, anche magari grazie all'ammissione del Bruno stesso. Naturalmente questo non vuol dire che quello che è successo a Giordano Bruno sia giusto, sia meno atroce di quello che abbiamo raccontato, stiamo solo cercando di comprendere meglio cos'era quella terribile vicenda allora. Rileggendo gli atti processuali con l'attenzione concentrata sul protagonista, invece che sullo scenario dello scontro ideologico, questo frate quarantenne, piccolo e bruno, ci appare come una figura bizzarra e piena di stranezze. Dietro il tratto culturale, un tratto caratteriale si precisa con chiarezza. Quella di un uomo portato verso gli estremi, collerico, eccessivo, ostinato, sprezzante. Quello di un uomo molto consapevole di sé, fino alla megalomania. Questo trasparire dell'uomo bruno, dietro il filosofo, l'eretico, il riformatore, non è senza problemi, perché ci spinge a domandarci quale ne sia stato il ruolo nella vicenda processuale. È difficile definire la figura di Giordano Bruno, un carattere unico come le sue opere, uno che ha saputo fondere le più diverse e contrapposte tradizioni filosofiche, si è mostrato un sapiente che sicuramente si è spinto molto oltre l'ortodossia del suo tempo grazie alle sue scelte comunque è diventato un simbolo e il suo colpo d'ala è stato quello di rifiutare la biura, cioè nel momento supremo lui ha preferito morire piuttosto che rivedere vigliaccamente tutta la sua vita, e poi questo ha fatto di lui un simbolo potente, perché con la forza delle sue convinzioni ha mostrato la via della modernità assieme al coraggio di diventare padroni delle proprie decisioni. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, cercateci sui miei, sui nostri social, insomma, se volete sapete dove trovarci. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.